il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Il 21 aprile del 1997 un razzo Pegasus viene lanciato nello spazio. Il razzo può trasportare fino a 500 kg di peso, quindi vengono mandate delle cose da lasciare all'infinito. Nei 500 kg sono inclusi 7 grammi di cenere, delle ceneri di Timothy Francis Leary, il grande sacerdote dell'LSD. Insomma, l'ultimo viaggio di Leary, l'ultimo trip, se mi permettete la battutaccia, è all'altezza della sua vita. È una vita anticonformista, trascorsa a insegnare alla gente a liberarsi dal controllo di una società fatta di poteri consolidati e di percorsi prestabiliti. We tell young people today, drop out of school. Diciamo ai giovani di oggi di lasciare la scuola, perché le scuole e l'istruzione odierne sono il peggiore dei narcotici. Non fate politica, non votate. Questi sono tutti giochi creati dagli adulti per infilarvi in una scacchiera di vecchi poteri. Sganciatevi, sintonizzatevi con le cose naturali, ponetevi all'unisono con l'armonia divina, circondatevi di bellezza e di oggetti sacri. Non fatevi coinvolgere da quel conformismo che chiamiamo società americana. Timothy Leary, l'uomo che attraverso l'LSD cerca di fare capire a un'intera generazione che ogni ideologia cerca di controllare l'essere umano, e quindi l'unico modo per sfuggire a questo controllo è pensare con la propria testa, con un'espansione della propria testa e della propria coscienza. E perché per Leary andare contro il potere è indispensabile, è l'unica religione da adorare, è il credo ultimo di cui si fa interprete ed esecutore. La sua ostia consacrata è il piccolo francobollo imbevuto di LSD, l'acido lisergico, il modo migliore per espandere la coscienza. L'unica politica in cui Leary crede è la politica dell'estasi, come si intitola uno dei suoi libri più famosi. Noi insegniamo la scienza e l'arte dell'estasi. Insegniamo alle persone ad attivarsi, a uscire fuori dalla propria mente. Per attivarsi intendiamo entrare in sintonia, andare oltre la propria routine, oltre la maniera di pensare e di agire solo attraverso l'esperienza. Spesso diciamo che insegniamo alla gente a usare la loro testa. Il punto è che per usare la propria testa bisogna però uscire dalla propria testa. Bisogna andare oltre il modo usuale di utilizzare la propria testa, oltre l'esperienza. Beh, uscire dalla propria testa è un concetto affascinante e spaventoso per la maggior parte di noi. Bene, per Timothy Leary è invece il punto di partenza fondamentale per entrare in contatto con un mondo che altrimenti ci verrebbe precluso. Leary è il primo a teorizzare che il modo migliore per accedere alla conoscenza è quello di vedere davvero energie alternative, come attraverso una specie di lente di ingrandimento deformante, insomma utilizzare l'LSD, e di questo fa la sua missione educativa. 300 anni fa le avessi detto: sa che tutto intorno a noi c'è un livello di energia che è invisibile ed è bella, potente e piena di significati? Lei avrebbe pensato che ero un pazzo, un paria, ed ero fortunato se non finivo in carcere. Il senso dell'LSD è che funziona come un microscopio, addirittura come un microscopio elettronico. Rivela un livello di consapevolezza dell'energia che è già lì, che esiste. Non c'è niente di miracoloso o di misterioso. Sono cose già presenti. E credo che nel futuro sarà utilizzato come un mezzo per educare, come una forma di crescita personale. In tutte le situazioni in cui non riusciamo a utilizzare il nostro pensiero simbolico, il microscopio, l'LSD, ci può aiutare a vedere di più, più velocemente e più in profondità. See faster and see deeper. Così Leary riesce a influenzare un'intera generazione, che è quella degli anni 60, che dopo l'ubriacatura materialista del dopoguerra ha bisogno di trovare un senso più profondo dell'esistenza. E insieme a lui c'è un folto gruppo di artisti, di scrittori, di intellettuali che sente il bisogno di trovare questa vastità che andasse oltre condizionamenti sociali, materiali, politici. Tra questi c'erano il poeta Allen Ginsberg, che condivise i primi esperimenti di Leary con l'LSD, poi c'è William Burroughs e Aldous Huxley, che è lo scrittore inglese del Nuovo Mondo, che ne parla a lungo. La cosa che mi interessava era che, nonostante l'esperienza di tutti i giorni sia ovviamente essenziale per la maggior parte delle volte, non è però la sola esperienza possibile. Esistono altri tipi di coscienza, quella artistica, quella mistica e così via, che hanno, empiricamente parlando, un valore altrettanto importante per permetterci di condurre una vita meno centrata su noi stessi e ricca di maggiore comprensione. Per sperimentare altri tipi di coscienza, Huxley prova prima la mescalina, poi l'LSD, descrive tutto nel libro Le porte della percezione, The Doors of Perception, Doors. Si dice che il nome della band Doors partisse proprio da questo, dal libro di Huxley. Anche per Leary la prima esperienza con le droghe psichedeliche è quella dei cosiddetti funghi magici in Messico, una specie di illuminazione, ma anche un punto di non ritorno. 5 ore dopo aver mangiato i funghi era cambiato tutto. La rivelazione era giunta. Il velo era stato strappato, la visione classica, l'esperienza piena della conversione, la chiamata profetica, le opere. Dio aveva parlato. Stiamo parlando di Timothy Leary, il gran sacerdote dell'LSD, l'uomo che ha insegnato all'America a viaggiare negli stati alterati di coscienza. Ma chi era veramente? Era un guru, un cialtrone, uno scienziato? Un abile comunicatore, probabilmente un po' di tutte queste cose. Più di tutto è stato un uomo capace di immaginare il futuro con un entusiasmo singolare, un futuro bello, armonioso e soprattutto meravigliosamente psichedelico. L'LSD rimarrà. Milioni di dosi sono state utilizzate finora negli Stati Uniti. E il senso dell'LSD è che una persona che l'ha utilizzato converte con il suo entusiasmo altre 2 o 3 persone vicine a lui, in modo tale che nei prossimi anni ci saranno anche 3 o 4 milioni di persone che ne faranno uso. Queste forme di energia rimarranno in circolo. Sono convinto che l'uso delle sostanze chimiche che aprono la mente e che mettono in contatto la gente con l'antica saggezza che è dentro se stessi renderanno l'uomo più in armonia con gli altri uomini. Impareremo a essere più in armonia con le altre forme di energia, con le piante, con le creature alate e con tutti gli altri animali intorno a noi. Io credo davvero che l'LSD e le altre droghe, anche più potenti che verranno, saranno un cambiamento enorme nella vita degli uomini. Beh, in realtà l'LSD non ha cambiato il mondo, però negli anni 60 tutto lasciava pensare al contrario, perché erano anni particolari, gli anni della B-Generation, Peace and Love, tutta quella che viene definita controcultura, che trasformò in modo molto profondo gli Stati Uniti di quel periodo, che arginò anche le velleità belliche di quel paese. La B-Generation crede nella ribellione nei confronti del potere, crede nell'uso delle droghe per raggiungere livelli diversi di percezione e di consapevolezza, e poi si interessa a religioni orientali, al buddismo per esempio, cerca l'armonia, l'uguaglianza. E proprio Leary nel 60 si trova tra l'altro in un luogo che può essere definito un osservatorio privilegiato di questo mondo che cambia, è il centro di ricerca sulla personalità a Harvard. Ho iniziato nel 1960 all'università di Harvard, ma già da anni ero uno psicologo che studiava il sistema nervoso. Il sistema nervoso è la chiave di tutta la conoscenza umana e io cercavo degli strumenti che facessero da microscopio per capire meglio come funzionava la mente e il sistema nervoso. Lei rinasce nel 1920 nel Massachusetts, si laurea in psicologia in Alabama, dopo la specializzazione all'Università di Berkeley, trascorre un periodo come capo ricercatore prima di arrivare a Harvard, si sposa, ha due figli, va in ufficio, quindi una vita che lui stesso definisce da automa come quella di milioni di altri americani della classe media. Quando arriva a Harvard ha già 40 anni, forse sente il bisogno di trovare un senso più profondo alla sua esistenza, e la svolta, come abbiamo visto, arriva con un viaggio in Messico con l'utilizzo dei funghi allucinogeni. Per caso in Messico presi dei funghi locali, quelli che chiamano funghi magici, e in quelle 5 ore che presi i funghi imparai di più sul mio cervello e sulle sue possibilità. E ho capito più cose sulla psicologia che in tutti i 15 anni trascorsi a studiare e a fare pratica di psicoterapia. E in pratica da quel giorno non ho fatto altro che continuare a seguire questa ispirazione innescata dall'esperienza avuta in Messico. Insomma, dopo 40 anni di vita piuttosto piatta, lui ha la sua grande occasione interiore, ma anche esteriore, perché inizia a sperimentare, prima con la psilocibina, che è il principio attivo dei funghi allucinogeni, e poi dai funghi si passa all'LSD, che a quei tempi, peraltro, è ancora una sostanza legale in America. E il primo LSD, quello che lui utilizza nei suoi esperimenti, è una sostanza chimica di origine naturale che è scoperta per caso nei laboratori della Sandoz da un medico svizzero che si chiama Albert Hoffman nel 1938. Quando scoprimmo l'LSD pensavamo fosse un prodotto da laboratorio. In seguito scoprimmo che i suoi componenti esistevano da secoli nel regno vegetale ed erano molto potenti. Essendo un uomo prudente, iniziai a prenderne dosi piccolissime, 0.25 mg. Il principio naturale alla base dell'LSD è un fungo della pianta della segale, una cosa molto facile da trovare in natura. È possibile che nel passato molte persone ne siano venute inavvertitamente a contatto, magari sperimentando allucinazioni, esperienze psichedeliche a loro insaputa, magari pensiamo alla stregoneria o anche a qualche apparizione di santo nel passato. Ma dalla sua scoperta fino agli anni 60 l'LSD viene utilizzato in psichiatria per trattare pazienti affetti da alcolismo, da depressione, da schizofrenia verso la fine degli anni 50, e nel decennio dopo diventa la droga di culto per chi in qualche modo vuole provare a espandere la propria coscienza. Timothy Leary la sperimenta su se stesso, il primo a credere che un'esperienza psichedelica come quella dell'LSD sia un regalo per l'umanità, un mezzo che la chimica offre a ognuno di noi per rimettere in gioco la realtà e per trasformarla, una sostanza di certo più utile di quelle che l'americano medio utilizza quotidianamente. La maggior parte degli americani conoscono già due droghe che alterano la coscienza: le droghe che ci stordiscono e le droghe che ci svegliano. Quasi tutti gli americani usano una di queste due droghe. Usano oppiacei, tranquillanti o alcol per concedersi un po' di piacevole stordimento. Oppure utilizzano il caffè e gli eccitanti per darsi una svegliata. E beh, vista così non possiamo dargli torto, insomma il pubblico, l'americano medio è soggetto a una serie di droghe per calmarsi, per eccitarsi, per rilassarsi, poi bevono, poi guardano la loro televisione dalla quale discende la nostra, insomma in effetti c'è da discutere su quali siano le vere droghe nel mondo. Lui intanto, Leary, vuole diffondere l'esperienza con l'LSD il più possibile per aiutare la gente, ma anche perché lui vuole sovvertire il sistema, e quindi il potere comincia a considerarlo una potenziale minaccia, e il presidente Nixon, vigile sul futuro dell'America, lo definisce subito l'uomo più pericoloso degli Stati Uniti. stiamo parlando di Timothy Leary, negli anni 60 considerato da Nixon l'uomo più pericoloso degli Stati Uniti, uno psicologo, un filosofo, uno studioso delle sostanze capaci di espandere la coscienza di ognuno oltre la realtà oggettiva, forse un avventuriero, uno che comunque ha trovato la sua dimensione grazie a questa battaglia, cioè rendere l'esperienza psichedelica accessibile a tutti, anche se magari regolata e controllata, bontà sua, da una serie di parametri medici molto precisi. Credo che qualsiasi adulto responsabile che abbia dimostrato durante un periodo di formazione di saper utilizzare questa forma di energia possa essere in grado di farlo. Sono contro l'uso indiscriminato dell'LSD, come di qualsiasi altra forma di energia. Un'automobile nelle mani di un alcolizzato o di un folle è una cosa molto pericolosa. Credo ci debba essere un sistema di autorizzazioni molto severo, controllato da un'agenzia di Stato, e che siano autorizzate solo persone preparate sotto il punto di vista sia fisico che psicologico. Persone che nel momento in cui utilizzano questo meraviglioso e incredibile accesso verso la saggezza e l'energia che esiste all'interno del nostro corpo, siano in grado di capire cosa stanno facendo e perché. You can be anyone this time around. You can be Krishna. You remember him? Beh, in realtà io in gioventù, tre o quattro caduti in questi bad trip, cioè i viaggi dove qualcosa non va come dovrebbe, li ho visti. E insomma, non è che Leary avesse ragione quando diceva che è solo un problema di controllo del viaggio, perché l'LSD insomma apre delle porte e non si sa bene cosa c'è nelle stanze. E di certo, comunque, c'è che le sue ricerche non sono troppo gradite a Harvard, quindi nel 63 viene invitato a lasciare l'università. Lui non si scoraggia e negli ultimi anni, anche grazie all'LSD, che viene spesso preso anche da persone facoltose, annoiate, in cerca di nuove emozioni, lui ha conosciuto molte persone ricche, influenti, che hanno appoggiato le sue ricerche. Tra questi ricconi c'è anche Peggy Hitchcock, una ricca ereditiera che propone a Leary addirittura di trasferirsi in una delle proprietà di famiglia, Millbrook, per farne il suo nuovo quartier generale. Cercammo di capire se questa mia vecchia casa potesse funzionare un po' da rifugio per questo piccolo gruppo di persone, se potesse essere una soluzione rispetto a quello che stavano lasciando. E quando vedemmo la casa, pensammo che fosse assolutamente perfetta. Così Leary usa questo regalo come un centro di sperimentazione. Negli anni centinaia di persone passeranno per questa grande casa e cercando esperienze che vadano oltre la realtà quotidiana. L'LSD viene distribuito generosamente tra un viaggio psichedelico, la meditazione serale, lo yoga mattutino, insomma proprio il regno, il paradiso dei fricchettoni. La vita prosegue serenamente per anni, però l'FBI comincia a vedere in questo posto, in Millbrook, un pericoloso centro di sovversivi, e nell'ottobre del 66 arriva quello che prima o poi sarebbe arrivato, cioè l'LSD viene dichiarato sostanza illegale. Ogni utilizzo che includa l'acido lisergico viene considerato un atto contro la legge. Da quel momento chi vuole utilizzare l'LSD può comprarlo solo dai vecchi cari spacciatori. Il ruolo di Leary è stato quello di rendere popolare l'LSD, ma il risultato fu che per noi ricercatori divenne impossibile utilizzarlo. In compenso divenne semplice utilizzarlo per l'uomo della strada. Hare Krishna. Eh sì, Leary rende l'LSD popolare, l'LSD rende popolare Leary, ma tutta questa attenzione fa sì che tutti gli studi clinici vengano di fatto totalmente svalutati, e dopo il divieto del governo l'LSD può essere ancora comprato ma sotto banco. Gli scienziati non possono più usarlo nei laboratori. Solo in anni recentissimi sono state avviate nuove sperimentazioni cliniche che ne prevedano l'utilizzo. L'LSD illegale si rivela anche l'inizio dei veri problemi di Leary, perché da questo momento lui sta pubblicizzando qualcosa che è vietato. Il gran sacerdote dell'LSD non può avere vita facile. Millbrook viene chiuso e con il trasferimento in California per lui iniziano i guai veri con la legge. Larry sta attraversando il confine in macchina con i suoi due figli e la nuova fidanzata che si chiama Rosemary Woodruff. Ha dimenticato di disfarsi di un resto di marijuana. Susan, la bambina, la figlia di Larry, dice: papà, ma ci penso io, nasconde la bustina sotto il maglione. Quando arrivano alla dogana, la macchina viene fermata e tutti vengono perquisiti. A un certo punto capimmo che ci era stata tesa una trappola, che i nostri telefoni erano stati messi sotto controllo. Non poteva esserci altro modo per sapere che avremmo attraversato il confine in quel punto in particolare, se non controllando il telefono. E non c'era altra ragione, se non quella per spiegare la presenza del poliziotto proprio lì. Marijuana trovata, bontà di padre, Larry si assume la responsabilità del suo possesso per scagionare la figlia. Ma l'operazione è una grande trappola e la pena che lo Stato gli infligge è esemplare e sproporzionata. 30 anni. Facendo appello, Larry riesce a evitare che la condanna venga eseguita. Viene arrestato nuovamente, questa volta siamo nel 68, poi nel 70 viene condannato a 20 anni. Per il governo lui era un comodo capro espiatorio, perché era lì che diceva in faccia a tutti di attivarsi, di entrare in sintonia e di abbandonarsi. E quindi più veniva condannato, più si prendeva addosso quella responsabilità. Diceva: ok, eccomi qui, sono io il corruttore della gioventù. Al suo arrivo in prigione viene sottoposto a un test per stabilire il suo livello di pericolosità. Pensate, un test ideato proprio da lui nei tempi in cui faceva lo psicologo. Fece il test in maniera tale che lo si escludeva come soggetto pericoloso e lo si segnalava come uno bravo e ben integrato. Così viene messo nella sezione destinata ai criminali meno pericolosi, va a lavorare nel giardino del carcere, che è il luogo da cui è più semplice scappare. Evade, aiutato da una organizzazione di estrema sinistra, esce clandestinamente dal paese, raggiunge l'Algeria, finisce sotto la protezione di un esponente delle Pantere Nere, anche lui in esilio. Dopo l'Algeria va in Svizzera, viene imprigionato per qualche mese su richiesta degli Stati Uniti, però non viene estradato, si separa da Rosemary Woodruff, si sposa con una eredità tira inglese, vive tra Vienna, Beirut, alla fine nel 72 atterra in Afghanistan, perché in questo paese non esiste l'estradizione, magari esiste qualcos'altro. L'aereo non è ancora considerato territorio afghano, quindi viene arrestato dagli agenti americani prima di scendere dall'apparecchio. Una volta in America viene condannato a 96 anni di prigione, da scontarsi nel carcere di Folsom, quello della famosa canzone di Johnny Cash. Una vita piuttosto rocambolesca. E mettiamoci anche che nel 68, prima di andare in prigione, si era candidato alle elezioni come governatore della California contro Ronald Reagan, creando addirittura uno slogan: Come together, join the party, che vuol dire unisciti al partito, ma anche alla festa. Quindi di fatto invitando tutti a unirsi alla grande festa psichedelica che lui da anni promuove. Diventerò il prossimo governatore della California. Daremo vita a un nuovo partito politico. E per partito intendo un partito sempre in festa. Sì, e se le parole di Come Together vi ricordano qualcosa, sono l'ispirazione per il titolo della canzone dei Beatles, perché Timothy Leary conosce John Lennon. John Lennon è un grande fan del LSD, lo invita a uno dei famosi bed-in che fa, nello specifico quello tenuto a Montreal in Canada il 1 giugno del 69. E forse è lì che Leary convince Lennon a scrivere una specie di inno per il suo movimento. Di tutto questo rimane una canzone meravigliosa che apre l'album Abbey Road e che vende 10 milioni di dischi. Ma torniamo a Larry, che è nella prigione di massima sicurezza di Folsom con una condanna a 96 anni e quindi una sola soluzione per scamparla: collaborare, così inizia a fare dei nomi, informazioni che in realtà non causano problemi seri a nessuno, ma che gli consentono di lasciare Folsom dopo 4 anni di prigionia. Certo, da 96 a 4 anni valeva la pena di fare qualche affermazione. Dopo il carcere torna in California, dove ripete a tutti il suo invito più famoso: turn on, tune in, drop out, che sarebbe accendetevi, sintonizzatevi, sganciatevi. Quindi un invito a accendere la mente, a sintonizzarsi, a sganciarsi dall'ordine costituito, dal potere, dalle maglie di una società che esercita il controllo sulla vita di ciascuno. Negli anni 70 e 80 lui si limita a utilizzare l'LSD a livello privato con un ristretto cerchio di amicizie e si è un po' stancato dell'acido, poi comincia ad avere una certa, perché va verso i 60. Adesso la sua mente poliedrica è affascinata dal futuro. Gli anni 80 hanno portato i personal computer direttamente nelle nostre case. È stata una grande liberazione per l'individuo. La stessa rivoluzione avvenne quando Gutenberg inventò la stampa. Il computer oggi ha la stessa potenzialità, perché non utilizza soltanto le parole stampate. Il linguaggio del computer è quello dell'elettricità, della luce. Quando guardi lo schermo, entri in contatto con questi fasci di luce. E la luce è il cibo del cervello. If you want to change your mind, change the medium. Change the words you use. Change the mode of communication. Così lui, che comincia a pensare che il computer sia l'LSD degli anni 90, si fa amici altri personaggi famosi: Susan Sarandon, Johnny Depp, Devin Byrne dei Talking Heads. Crede lui nella possibilità di espandere l'esistenza congelando il proprio corpo, tra l'altro, ma tutto questo non gli impedisce di ammalarsi di cancro, ma anche la malattia diventa un'opportunità, come ci ricorda proprio Susan Sarandon. Me lo disse tipo: sai, fra parentesi, ho il cancro alla prostata. E decise che questo era l'ultimo dei tabù e quindi doveva venire affrontato con lo stesso entusiasmo con cui affrontava tutto il resto. Un uomo del genere non poteva che uscire di scena alla grande. Se andate su internet trovate Timothy Leary's Last Trip. È il filmato della morte di Timothy Leary, perché lui si fa riprendere per il suo gran finale, anche se poi c'è una parte palesemente artefatta, perché il finale è una decapitazione, ma di fatto lui esce di scena alla grandissima. E ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, volare altrove, come nel caso di Timothy Leary, volare in altre dimensioni, ma ognuno di noi nella vita può volare dove vuole, purché lasci un segno. Se volete mandarci dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a trovarci nelle varie pagine e nei vari social, compresi i miei. Insomma, se mi cercate sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.